Sembra accertato che Stendhal nel 1838 scrisse La Certosa di Parma in due soli mesi. Simenon, che era uno che pretendeva qualcosina meno sul piano della forma, garantiva che molti dei suoi romanzi erano stati scritti in pochi giorni. E tuttavia io riesco ancora a stupirmi di certe rapidità. Dicono i giornali che in libreria va a ruba, non siamo capaci di ascoltarli. E poi dicono anche che è pronto fresco di stampa L'età incerta, sottotitolo I nuovi adolescenti, slogan I genitori di fronte a una grande sfida, tanto per ribadire nel caso qualcuno non avesse capito bene. Sudore della fronte di psico qualcosa di regime, indubbiamente campioni, quindi di tempestività. E non solo. In settimana sono usciti almeno 5 film nuovi. A leggere le recensioni non ce n'era uno che in un modo o nell'altro non concernisse famiglia in crisi, difficili rapporti fra genitori e figli, sussurri e grida fra infernali pareti domestiche. Non basta. Leggo che Giancarlo Cobelli ha messo in scena una sua versione del Macbeth di Shakespeare. E ne leggo un commento che si conclude con la seguente domanda. Se il criminale è un giovane, all'improvviso un crimine è meno importante di chi lo compie? E ridagli. Il mercato ricicla tutto all'insegna del paradigma narrativo di successo. E così il duplice assassino di Novi Ligure e l'epidemia di mamme accoltellate dei giorni successivi capitano tanto a proposito da far sembrare libri, dibattiti e chiavi interpretative più la causa che l'effetto.